Questo era il trio di Peter Evans, nell'ultimo lavoro uscito, Extra, un trio formato da Peter Earth al basso e dal grandissimo Jim Black, che ha recuperato una dinamica, una capacità comunicativa e anche di interplay con la tromba di Peter Evans, che sono veramente notevoli. E anche questo è, direi, un disco ben riuscito e decisamente interessante. I due dischi che abbiamo ascoltato, entrambi comportano anche una certa, come dire, difficoltà anche di concentrazione nell'ascolto, non è musica estremamente semplice, pur essendo ben leggibile. E quindi concludiamo il terzo della giornata è decisamente più semplice, più cantabile, più anche nel programma, più vicino a un linguaggio pop rock, perlomeno di un certo tipo. Si tratta dei Bad Plus, una formazione che ormai ha più di 25 anni alle spalle, che però negli ultimi anni ha cambiato con l'uscita di Ethan Iverson ha cambiato la propria timbrica. Dopo un tentativo con Oran Davis al pianoforte, insomma, che non è stato eccezionale, e direi che è approdato a questo quartetto, che è alla seconda pubblicazione. Alla prima ha avuto un notevole successo anche di pubblico, di vendite, diciamo, se così si può definire ormai, ma insomma è un quartetto che ha convinto e indubbiamente le timbriche sono ben compatibili e anche, come dire, il risultato rimane coerente con la logica, lo stile dei Bad Plus, che è uno stile che prende molto anche da questi punti di confine o elaborazioni di famosi temi legati al pop o al rock, e per poi rielaborarli con una timbrica indubbiamente importante. Il gruppo è stato fondato a suo tempo da Ray Denderson. E ormai è rimasto lui solo come primo, come fondatore, anche quello che compone la maggior parte dei brani che vengono poi eseguiti. Poi si è aggiunto, alla fine già degli anni 90, si è aggiunto Dave King, che è rimasto appunto, questi due musicisti rimangono i due originali della formazione dei Bad Plus. A questi si sono aggiunti due musicisti senza pianoforte, una sassofonista, Chris Speed, e un chitarrista, Ben Monder. Entrambi hanno qualità sia particolari nel fraseggio, sono piuttosto eclettici anche nelle proprie. Come dire, si adattano anche ai contesti più diversi, specialmente Ben Monder, e entrambi hanno una personalità molto forte, il suono e anche il fraseggio, un fraseggio piuttosto sintetico che riesce a dare un carattere sempre personale ad ogni brano al quale si avvicinano. Le composizioni sono quelle che ascolteremo, sono tre brani che ascolteremo. Il primo e l'ultimo sono due composizioni di Ray Denderson e il secondo invece è un brano composto da Chris Speed. Si sente anche come dire, lo stile compositivo sia di Ray Denderson che di Chris Speed. Ascoltiamo questo Complex Emotion. Thank you. Questi erano i Bad Plus, nell'ultimo disco appena uscito, Complex Emotions, disco di una nuova etichetta che appunto raccoglie quelle che sono le proposte di chi produce, perché è prodotto poi da Red Anderson e Dave King, che sono naturalmente i due pilastri del gruppo, ai quali si sono aggiunti le grandi qualità di Ben Monder alla chitarra e di Chris Peed al sax tenore. Era anche l'ultimo ascolto per oggi. Vi ricordo che l'intera trasmissione la potete trovare nel nostro sito Radio Città Fujiko, la sezione musica playlist. Salve a tutti, alla prossima.